Lei perché è favorevole allo stipendio minimo come ha proposto Juncker, lo stipendio in Europa o comunque anche in Italia? Beh, ecco, diciamo così, l'Europa, sarebbe più forte l'Europa se in tutto il vecchio continente ci fosse una soglia minima. Dal mio punto di vista sarebbe interessante immaginare anche una soglia massima delle retribuzioni. Addirittura, cioè... Perché no? Nella mia idea, dal punto di vista per esempio delle pubbliche amministrazioni, sarebbe una cosa sensata porre un limite non soltanto in basso ma anche in alto. Il rigore è una bella formula, talvolta è una formula magica, soltanto che si è molto più rigorosi con una parte della società e molto meno rigorosi con un'altra parte della società. Quando si tratta di bussare a casa dei pensionati o dei giovani precari o delle famiglie normali, credo che queste classi dirigenti si presenti senza tanti complimenti. Quando si tratta di bussare a coloro che abitano nei piani nobili dei palazzi del potere, allora le classi dirigenti diventano sempre molto pudiche. Ecco, io vorrei fare il contrario. Il contrario. Berlusconi al Quirinale, lei come lo vedrebbe? Ma stiamo parlando di cose che mettono i brividi, perché Silvio Berlusconi ha incarnato una stagione di regresso. È stato ed è nel mondo l'icona di una politica che usa le cose pubbliche per compiere affari privati. Penso che l'Italia sia stata già fin troppo danneggiata da Berlusconi. Immaginarlo al Quirinale è davvero agghiacciante.